Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani. Come preannunciato nel corso del giornale radio, la nostra puntata quest'oggi è in diretta da Verona, dalla 46esima edizione del Vinitaly, la prima e più importante fiera al mondo per il settore del vino. Siamo al padiglione 3, stand C3, all'interno dello stand Ferrari, uno stand elegantissimo, se me lo lasciate dire così vi racconto un po' anche qual è il contesto nel quale ci troviamo. Comunque, tra un buon investimento e una bottiglia di vino ci sono davvero molti punti in comune. Bisogna trovare il momento, l'occasione giusta, scegliere la qualità migliore e gli abbinamenti corretti. Il vino, oltre ad essere un fiore all'occhiello per la nostra cultura, la nostra produzione, la nostra tavola, le nostre esportazioni, può rivelarsi anche un buon investimento in termini finanziari. Oggi a Salva Danaio, in diretta dal Vinitaly, vogliamo raccontarlo proprio da questo punto di vista. Parliamo di investire nel vino, che non significa quindi essere disposti solo a spendere una cifra un po' più, o qualche volta un bel po' più consistente del solito per una buona bottiglia. Esistono veri e propri strumenti finanziari che investono nel vino e puntano proprio sulle etichette più pregiate per garantire rendimenti interessanti. Un settore che abbiniamo spontaneamente ad una nicchia riservata di pochi intenditori, ma che sta raccogliendo sempre maggiore attenzione da parte di chi cerca un'idea originale per diversificare il proprio portafoglio. Oggi andiamo a scoprire come, insieme al vino come trend di consumo che entusiasma sempre di più, si comporti anche molto bene l'idea di vino come investimento per chi vuole difendersi in un periodo economico difficile, quindi come diversificare il proprio portafoglio e come si fa acquistando un prodotto che per definizione migliora nel tempo. Un saluto e ringraziamento per essere qui con noi nel nostro stand a Paolo Repetto, titolare di Vinifera. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Abbiamo avuto modo di conoscerci anche lo scorso anno. Questa azienda opera nella consulenza dell'investimento nel vino, no? Sì. L'ho detto in termini molto generici, ma fate qualcosa anche di molto più interessante e importante. Nel commercio e nella consulenza di grandi vini. Più tardi ci collegheremo anche con Lucia Lorenzoni, responsabile del settore research e quindi della ricerca di Banca Monte dei Paschi, perché questa banca ha ideato l'MPS Wine Index, e poi ci collegheremo con Giancarlo Fancel, vice direttore generale di Banca Generali, perché questo gruppo invece ha lanciato con successo un fondo di investimento che punta sui vini e che ha dato delle ottime remunerazioni da quando è partito, in rapporto naturalmente al mercato in termini generali, al mercato finanziario. 800 24 00 24 è il numero verde che vi permette di interagire con noi, se volete chiamarci, se volete intervenire in diretta e esplorare anche delle curiosità, porci delle domande su questo tema. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Cominciamo subito nella nostra chiacchierata con Paolo Repetto, poi con gli altri due ospiti ci collegheremo a partire dalle 12.30. Ma è una novità interessante per almeno le persone alle quali voi offrite la vostra consulenza, il tema dell'investimento nel vino in termini finanziari. Ripeto, vi chiedono sempre di più, dati gli scenari di mercato che abbiamo affrontato negli ultimi tempi, oppure ancora davvero c'è la nicchia, è un mondo riservato a pochi? Guardi, dire la parola novità non è appropriata riguardo l'investimento del vino, perché insomma non è un tema nuovo da secoli. La nobiltà del nord Europa, soprattutto gli inglesi, che sono sempre stati dei grandi appassionati di vini, in particolare di Bordeaux, hanno investito nei vini, quindi non è una vera e propria novità. Diciamo che ultimamente è cresciuto parecchio l'interesse, perché il vino in generale è un argomento sempre più di moda, nel bene e nel male. Si parla sempre più di vini di qualità, si parla sempre più di grandi vini, questa anche a volte parola un po' abusata, però sì, diciamo che c'è un interesse crescente. È un argomento così un po' al quale ci astratto. Si approccia un po' come al calcio, facciamo tutti i commissari tecnici, tutti sappiamo tutto. Beh, o no? Sul vino sì, sull'investimento sul vino no, perché c'è curiosità, c'è interesse, ma in realtà non è neanche una cosa fatta facile da trovare. In Italia è una cosa attualissima, ho scoperto adesso di questo nuovo fondo di investimento di cui hai parlato prima e mi fa molto piacere, perché in Europa i fondi di investimento in realtà sono pochi. Tra l'altro in Italia non esistono fondi di investimento con sede in Italia, perché la legislazione italiana non lo prevede. Credo che la società che gestisce non sono italiane, esattamente. Poi ce lo facciamo raccontare. Esattamente. E questa è già ad esempio una cosa che limita, diciamo, l'intimità con questo argomento. Le banche italiane, fatto salvo pochissime banche, tra cui la Monte dei Paschi, generalmente non conoscono questo tipo di argomento, quindi diciamo che l'utente finale è molto incuriosito, ma spesso non ha le informazioni necessarie per capire proprio come approcciarsi. E quindi magari, anche se legge cose interessanti, performance molto interessanti, spesso magari lascia perdere perché non sa bene come si deve muovere. Allora Paolo, cominciamo dalla BC. Sì. Che cosa sono i grandi vini? Dietro questa definizione penso che potremmo star qui a parlare 5 ore. Questa è una domanda che dopo la mia risposta secondo me riceverai tante telefonate di persone d'accordo o meno. È una domanda che spesso divide. In realtà c'è una risposta oggettiva e inopinabile. Un grande vino ha dei fattori intrinsechi molto importanti. Il primo, chiaramente, è che è quello più importante, e deve essere un vino di grande qualità. La qualità è sempre il primo fattore. Ma non solo, un grande vino deve essere prodotto da moltissimi anni, da decenni o spesso da secoli, come accade a Bordeaux, e la sua qualità deve essere universalmente riconosciuta. Cosa significa? Che se io domani comincio a produrre un vino e sostengo che sia un grande vino, e magari questo vino è veramente buonissimo e ha una qualità straordinaria, ma non c'è qualcuno che sostiene questa cosa con me, e quindi in questo caso chi è? Chi deve essere questo qualcuno? I giornalisti di fama internazionale? In qualche maniera noi ci siamo sempre di mezzo. Sì. Anche se io non sono né esperta di vino né, diciamo, una caratura internazionale. Ma guarda, Deborah, il giornalista più conosciuto al mondo adesso era un ex avvocato che ha fondato circa 30 anni fa The Wine Advocate negli Stati Uniti, si chiama Robert Parker, ed è la persona che può determinare se per il mercato un vino è un grande vino o meno. Incredibile. Perché il suo marchio, della reputazione del vino. Sì, è quello che ha inventato i punteggi in centesimi. E un punteggio elevato di Robert Parker, così come dell'altra Bibbia del vino statunitense, Wine Spectator, può veramente essere decisivo sulla storia di un'azienda, sulla sua storia economica e sul determinare se un vino sia quello che io definisco, perché poi c'è una parola per sostituire grande vino, perché grande vino può voler dire tutto e niente. C'è una parola che si chiama fine wine. Sì. Quindi un vero fine wine è un vino che ha una grande qualità, prodotto da decenni, una qualità riconosciuta, in questo caso abbiamo detto appunto da le guide di riferimento, e quarta e ultima cosa, deve essere limitata, deve avere una disponibilità limitata, perché se di quel vino ce n'è troppo, voglio dire, il mercato, nonostante lo ricerchi, un altro fattore importante è che un vino venga molto ricercato dal mercato, ma se di quel vino ce n'è in abbondanza, chiaramente è difficile catalogarlo come fine wine, perché non acquisterà mai un valore. La produzione ragionevole di bottiglie ogni anno è già un elemento che ci può indicare se stiamo parlando di un grande vino o meno. Detto che questo mondo, da quello che mi pare di capire, da quel poco che conosco, è dominato appunto dai francesi, andando in Italia ci puoi aiutare a capire un po' questo mondo, da che tipo di attori è popolato? Sì, allora l'Italia per fortuna sta, per usare un termine molto di moda ultimamente, riducendo il suo spread con i vini francesi. In realtà in Italia noi abbiamo per il momento poche etichette che possono essere catalogate come fine wine. Tanto per capirci, esiste dal 99 un indice che si chiama l'IVEX, diciamo che può essere paragonato alla borsa ufficiale dei fine wine. Questo indice, che in realtà è poi suddiviso in diversi indici, diciamo che l'indice principale è l'IVEX 100, che comprende i 100 più grandi vini, uno stesso vino può essere presente anche con diverse annate, più scambiati dal mercato professionale. So che la top 10 di questo indice è interamente francese, non gli italiani? Non solo la top 10, sono i primi 40? Anche di più, perché considera che sono quasi tutti i vini di Bordeaux, italiani. Ci sono due vini adesso in questo nell'IVEX 100, sono il Sassicaia e l'Ornellaia, quindi due vini di Bolgheri. e poi c'è qualche champagne, qualche vino di Borgogna e della Côte du Rhône, quindi insomma Bordeaux la fa ancora da padrona. Com'è andato questo indice in tempi recenti, se dovessimo fare un paragone con i principali indicatori finanziari, quindi dunque, borsa, mercato obbligazionario? Il 2011, in particolare gli ultimi sei mesi, non sono andati bene per questo indice. In realtà bisogna dire che siccome il vino, l'investimento sul vino, così come tutti gli altri tipi di investimento, va considerato perlomeno in un medio termine, sul vino diciamo che bisogna parlare almeno di 5 anni, in realtà non è quindi anche questo un territorio adatto alla speculazione, non si può entrare e fuggire c'è chi ci prova. Poi ti dico perché, c'è chi ci prova e c'è chi lo fa anche. E che lo fa. Però diciamo che investire per un investimento adeguato sul vino bisogna ragionare su un arco temporale di almeno 5 anni e comunque l'IVEX, l'indice l'IVEX degli ultimi 5 anni ha reso qualcosa intorno al 100%, quindi non direi che sia andato proprio così male, nonostante nel 2012 abbia perso un qualcosa intorno al 20%. Poi i vari sottoindici hanno guadagnato dal 60%, 70%, 80%. C'è un ascoltatore che ci scrive adesso: volete distruggere anche il vino accostandolo alla finanza ladra? Oddio, un sì, accostamento che vabbè, insomma, questo è magari un commento un po' pittoresco, sì. Però insomma si è finanziarizzato tutto anche quello, ma cominciando anche dagli strumenti più semplici, senza scomodare l'IVEX, l'indice, appunto. Ma abbiamo intanto i certificati in primer qua, sì, in Italia, poi magari raccontiamo, ecco, come funzionano. Sì. Ma allora intanto possiamo dire per esempio che tutti i più grandi chateau di Bordeaux, anche quelli più famosi, sono ormai, non sono più di proprietà privata come succede in Italia, ma sono parte di fondi di investimento, di compagnie assicurative, piuttosto che di grandi holding industriali del lusso, quindi è normale che l'azienda vinicola, nonostante abbia il suo faro nella produzione di vini di qualità, debba per forza portare delle performance che vanno al di là della qualità del vino, quindi non solo performance qualitative ma anche performance di redditività. E adesso tra l'altro non stavo guardando un po' che tipo di domande stessero arrivando dai nostri ascoltatori, adesso vediamo il mio collaboratore da Milano, Marco Lombardo, chi ci mette in onda per cominciare appunto anche ad interagire con i nostri ascoltatori, e ce n'è uno che scrive, Paolo, appunto, che Parker è recentemente andato in pensione, ma credo che comunque una passione di questo tipo non tramonti mai nonostante sì, il trattamento. No, in realtà Parker non è andato in pensione, se ne è parlato molto. Parker ha sofferto di qualche problema di salute ultimamente, diciamo che anche una vita a mangiare e bere, per farla semplice, è anche una vita un po' faticosa, non è un brutto lavoro ma può anche essere un po' faticoso. Diciamo che Parker ha fatto un piccolo passo indietro, si sta dedicando più alle vecchie annate, la rivalutazione delle vecchie annate, perché ricordiamoci che il vino si parla sempre delle ultime annate, ma non si parla mai delle grandi annate. Qual è la migliore in assoluto degli ultimi anni, che magari ci troviamo Italia? Per caso una bottiglia in casa e non sappiamo di avere in Italia, naturalmente. Dipende dalle regioni. Diciamo che anche in Italia negli ultimi 15 anni siamo stati fortunatissimi. Sì. Siamo stati veramente fortunati, togliendo la 2002, che anche qui non è sempre vero perché in Alto Adige hanno fatto vini strepitosi, e la 2003, che se vi ricordate fu quella annata caldissima, ma anche qui, che ha lavorato bene, ha fatto comunque dei vini ottimi, siamo stati sempre fortunati. Quindi la natura ha aiutato a produrre grandissimi vini, poi anche lì bisogna andare a vedere nelle varie regioni dove... Credo che, esatto, poi magari su questo terreno ritorneremo nella seconda parte della trasmissione, poi mi devi raccontare, Paolo, quali sono le richieste più stravaganti che ti fanno i tuoi clienti, che sono appassionati di questo comparto, ma soprattutto trattano il vino non solo come passione, anche come strumento di investimento, che naturalmente dal quale si cerca di ricavare e di generare rendimenti per il futuro. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, ancora buona giornata a tutti. Quest'oggi è una puntata abbastanza particolare della nostra trasmissione, perché siamo in diretta anche noi dalla 46esima edizione del Vinitaly a Verona, la più grande kermesse mondiale appunto del vino, e naturalmente gli italiani fanno sempre una grande figura, anche se anche stamattina abbiamo capito che, parlando di vino dal punto di vista finanziario, i francesi ci dominano sempre. Chissà, scusate, quando riusciremo a superare questo problema, se poi di problema si tratta per gli attori del mercato. Paolo, ripeto, non la pensa così. No, in realtà potrebbe anche diventare un'opportunità, perché chiaramente i francesi hanno una storia così, così lunga, una reputazione così importante per gli amanti dei grandi vini, per chi vuole investire nel vino, che sarà difficilmente intaccabile. Però questa crescita dell'interesse sui grandi vini è un'opportunità anche per i vini italiani, perché avvicina sempre più persone al mondo dei vini di qualità, che possono scoprire quali sono le grandi etichette italiane, che magari costano anche decisamente meno rispetto ad alcune etichette francesi. Allora, adesso la lascio riposare per qualche minuto, perché ci colleghiamo con, intanto la saluto, Lucia Lorenzoni, responsabile della ricerca di Banca Monte dei Paschi di Siena. Questo gruppo ha ideato l'MPS Wine Index. Dottoressa Lorenzoni, buongiorno. Buongiorno, ci a sente? Voi. Eccoci. Mi qua. Scusa per la voce, perché stamani ho dei problemi di voce, ma spero non che ne parliamo neanche, non ne parliamo neanche, perché qua io subisco un tracollo al mese, vabbè, ma io la uso anche per lavoro parecchio e non ho bevuto peraltro. E poi buongiorno e grazie anche a Giancarlo Fancel, vice direttore generale di Banca Generali. Dottor Fancel, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Guardi, ho raccontato a microfoni spenti al mio ospite qui a Verona, a Paolo Repetto del vostro fondo di investimento, ed è molto curioso di sapere come funziona e di che tipo di accoglienza ha ricevuto anche fra gli investitori, quindi si prepari a molte domande questa mattina. Certo, volevo però partire con Lucia Lorenzoni, così la lascio anche in pochi minuti. Il Wine Index elaborato da Monte dei Paschi, come è nata questa vostra iniziativa, soprattutto per quale così ragione anche finanziaria avete ritenuto opportuno adottare un parametro di questo tipo per monitorare anche l'andamento del mercato del vino in Italia? Sì, il motivo nasce dal fatto che volevamo avere una misura, quelle che potevano essere le pressioni competitive, che una bottiglia, noi l'abbiamo chiamata una bottiglia di vino virtuale italiano, incontra quando lascia l'Italia. Perché diciamo abbiamo avuto bisogno di una bottiglia virtuale e quindi di un indice che rappresentasse un po' quello che fosse il mondo del vino? Beh, fondamentalmente per il fatto che il mercato del vinicolo italiano è talmente, talmente tanto frammentato, sia per dimensioni di imprese che soprattutto per tipologie di vino, che seppur l'indice possa sembrare una brutale semplificazione, però noi avevamo bisogno di un indicatore che potesse appunto fornirci queste indicazioni, quindi vedere quali erano le pressioni competitive che il vino italiano incontra quando lascia l'Italia. Quindi se ci dovesse dire come è composto questo paniere, che cosa infatti, c'è? Infatti questo paniere, ma fondamentalmente vengono utilizzati i prezzi alle origini di circa 100 denominazioni e vengono pesate ed entrano all'interno dell'indice nella stessa misura in cui sono composte le esportazioni di vino italiane. Quindi pesiamo i vini di qualità e i vini comuni in base a quello che è il peso che i vini che vi ho appena detto hanno all'interno delle esportazioni italiane. Per questo poi quello che ne esce, diciamo, è una bottiglia rappresentativa di quello che è il vino italiano che lascia appunto il paese per andare all'estero, e quindi non è altro appunto che una media ponderata dei prezzi di vini di qualità e dei prezzi dei vini comuni nella stessa composizione in cui entrano nelle esportazioni. Dottoressa Lorenzoni, alla luce dell'andamento dei mercati finanziari, prendiamo a riferimento la borsa, magari la borsa italiana, appunto questo indice com'è andato in relazione al FTSE MIB? Se avete fatto appunto anche questo tipo di confronto, e ho letto anche un vostro report nel quale avete già formulato delle previsioni, considerato lo scenario recessivo che si è già preannunciato per il nostro paese. Il nostro paese nel 2012 andrà in recessione di almeno 1,5 punti. Secondo voi, secondo le vostre previsioni, questo indice come si muoverà? Sì, allora la cosa interessante dell'indice è che è emerso appunto dall'andamento dell'indice che il mercato italiano, come del resto poi è successo per altri mercati, non è assolutamente avulso da quelle che sono le dinamiche sui mercati finanziari, né tantomeno da quello che è la dinamica dei prezzi dei vini a livello mondiale. Infatti c'è una fortissima correlazione tra il principale future di settore, l'IVEX 100, con il nostro indice. E il principale di settore anticipa con un arco temporale compreso tra i 3 e i 6 mesi quello che poi succede al nostro indice, e purtroppo il Livex sta già segnalando un rallentamento nella crescita dei prodotti all'origine per il vino italiano. Ora, quello che sta succedendo è che il 2011 è stata un'annata direi assolutamente positiva per i prezzi dei vini all'origine. Tra l'altro hanno anche il nostro indice segnala che nell'ultimo trimestre del 2011 c'è stata veramente una crescita importante, con incrementi tendenziali che hanno sfiorato il 20%. Purtroppo nei prossimi mesi la situazione non sarà così rosea, nel senso che questi incrementi sono destinati a smorzarsi, quindi avremo un rallentamento dell'andamento dei prezzi dei vini nei prossimi, almeno i prossimi 2-3 trimestri, proprio considerando anche il fatto che ci stiamo approssimando ad una recessione. La cosa che secondo me è altrettanto da segnalare è che all'interno dell'andamento dei prezzi all'origine effettivamente il grosso recupero che sta registrando anche l'indice è dovuto ad un recupero dei prezzi dei vini comuni, perché purtroppo i prezzi dei vini, chiamiamoli così, di qualità come le DOC e le DCG ormai, diciamo così, si sono abbastanza stabilizzati. Vino comune che molto probabilmente ha risentito in modo abbastanza marcato di un incremento di domanda dovuto appunto anche a questa fase recessiva e a questo possibile rallentamento della domanda che è già, diciamo, in atto, ma che potrebbe confermarsi poi nei prossimi trimestri. Grazie a Lucia Lorenzoni per essere stata con noi. Volevo sentire un commento rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato da Paolo Repetto, tra l'altro anche quest'ultimo aspetto che la dottoressa Lorenzoni toccava sull'aumento dei vini comuni. Sull'andamento delle quotazioni dei vini comuni, sì, diciamo non come dire, di qualità eccellente, non abbordabili da noi comuni mortali, diciamo pure così. In realtà ci rifacciamo un po' però all'argomento che dicevamo prima, cioè bisogna capire cosa si intende per vini comuni o non comuni, vini di qualità o non di qualità. Molto spesso poi si fa anche un'associazione che a mio modo di vedere è sbagliatissima, cioè si identificano le DOC e le DOCG come vini di qualità. Non sempre così? No, perché la, anche il consumatore dovrebbe, bisogna dare delle indicazioni. Dovrebbe esserlo, però cosa vuol dire DOC? Denominazione di origine controllata, o DOCG controllata e garantita, quindi non sono altro che certificazioni di provenienza. Chiaramente i disciplinari che regolano la provenienza regolano anche la teoricamente la qualità, però non è sempre, cioè non per forza un vino DOC o DOCG è un vino di qualità. Basta pensare che oggi il vino italiano più ricercato al mondo, che è il Sassicaia, era nato come vino da tavola. Quindi è un po' difficile rispondere, dare un parere, ma perché io non sono sono troppo radicale forse nei miei giudizi, cioè, sul tema della qualità. Più che altro sull'oggettivizzazione di un vino di qualità o meno. Quindi, lascio però questo campo, lo lascio esplorare veramente agli esperti. Noi questa mattina interessava capire un po' anche come funzionano gli strumenti di investimento legati al vino, qualora in questa fase di mercato ancora incerta, perché lo spread non ci lascia sonni tranquilli per la borsa, anche quando riprende a salire ci sono sempre delle incognite dietro l'angolo pronte a fermarla, appunto. Allora magari se abbiamo una disponibilità finanziaria che ci dà l'opportunità di cogliere degli investimenti davvero alternativi, magari oggi così ci interessava un po' più fare questo monitoraggio. Giancarlo Fancel, Banca Generali, in questa maniera devono averla pensata molti dei vostri clienti che ad un certo punto vi hanno chiesto, con questo mercato che non ci garantisce più quantomeno la protezione del nostro capitale, chiaramente parlo anche di investitori di una certa importanza, perché non studiate qualcosa di realmente alternativo, soprattutto per chi ha anche magari delle passioni come il vino? Come è nato il vostro fondo di investimento che punta in questo settore? Ma guardi, è nato da un incontro che abbiamo avuto con la società e con il gestore di questo fondo di investimento, che è una società lussemburghese, incontro dovuto un po' alla passione che ovviamente parte come momento propulsivo per questo tipo di analisi e poi di investimenti, e poi abbiamo pensato di inserire questo fondo in una nostra gestione patrimoniale insieme ad altri comparti che riguardano orologi da collezione e pietre preziose, quindi proporlo ai nostri clienti. Proporlo innanzitutto come un prodotto assolutamente decorrelato rispetto all'andamento dei mercati finanziari. La storia, seppur breve, di questo fondo ci sta dando assolutamente ragione. Dottor Fancel, devo andare alla prossima pausa. Ci spiega in 10 secondi come si è concretizzata questa decorrelazione rispetto all'andamento dei mercati, quanto ha reso, quanto ha remunerato i propri investitori appunto questo tipo di investimento in relazione a borse e mercato obbligazionario? Allora, la parte legata ai Noble Crew, che sono i vini sottostanti, l'11 e qualche bips percentuale nel 2011, è dovuto fondamentalmente all'andamento dei prezzi dei grandi vini, e prevalentemente francesi, prevalentemente grandi Bordeaux e grandi Borgogna. Tra l'altro, a parte l'investimento, so che voi vi coccolate molto gli investitori in questo ambito, i sottoscrittori di questo fondo, perché permettete loro anche di andare nelle cantine a monitorare un po' qual è il percorso di vita del vino sul quale investono, giusto? Anche in un cavò di Ginevra Nel cavò di Ginevra sono custodite le bottiglie, quindi gli asset del fondo. Il cliente coniuga passione investimento, entra a far parte così di una specie di club dove ci sono delle cene con degustazione a Ginevra, a Parigi, nel Wine Business Club, le visite al Porto Franco di Ginevra e poi altre cene che vengono fatte in prestigiosi ristoranti italiani dove si abbinano vini e grandi piatti. Benissimo, ci fermiamo, ci sono suggerimenti per chi è in viaggio. Saluto il simpatico ascoltatore che vuole sapere se ci sono strumenti di investimento legati al chinotto, e chi lo sa se magari qualcuno non se li inventa. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Allora, dottor Fancella, abbiamo un'altra curiosità per lei. Ci raccontava prima del ritorno, del rendimento che il fondo di investimento appunto che avete in casa vostra ha generato per i propri sottoscrittori, e lei ci diceva perché effettivamente questi ritorni sono stati generati dal portafoglio sul quale il fondo investe, che è composto largamente da grandi vini francesi. Ma perché in un momento in cui, lo chiedo a lei che comunque non gestite in casa vostra questo fondo, lo fa un'altra società per conto vostro, ma perché non vi siete orientati anche alla costruzione di un portafoglio che investisse prevalentemente in fondi di grande qualità, in vini di qualità italiani, visto che siamo in un momento di grande patriottismo sull'investimento? Abbiamo organizzato il BTP Italia, il BTP Day, lei se lo ricorderà, negli scorsi mesi. Perché certo, i vini italiani non si meritano lo stesso trattamento? Sì, allora, diciamo una cosa, che ovviamente noi dobbiamo tutelare un po' i nostri clienti e i risparmiatori. Diciamo che questo deriva da quello che si accennava poc'anzi, che accennava il dottore Petto se non sbaglio. I francesi hanno una grande storia, una storia centenaria, hanno una capacità distributiva di penetrazione molto più forte rispetto a grandi vini italiani. E se lei va nelle aste nei paesi asiatici, Hong Kong e Singapore, i clienti danarosi prevalentemente di queste aste richiedono grandi Bordeaux, perché sono molto più conosciuti dei vini italiani. Diciamo che c'è qualche timido segnale di ripresa di vini italiani, infatti nelle ultime aste sono tenute a dicembre sempre nei paesi asiatici, alcuni vini italiani sono presentati molto bene con livelli di prezzo interessanti. Noi, dovendo tutelare ovviamente il gestore insomma di questo fondo, dovendo tutelare il rendimento, ad oggi non ci sono ancora le condizioni per dare ampio spazio a questo. Sicuramente un tema che noi, sia per investimento e per creazione di prodotto, ma anche per passione, devo dire, è una cosa che monitoriamo molto, molto seriamente e costantemente, per capire quando è il momento di pensare anche un qualcosa sui grandi vini italiani. Ad oggi, onestamente, e lo dico anche con un filo di rammarico, non ci sono queste condizioni, ma proprio deriva da motivi storici. Ecco, ce lo dice lei, anche se qualcuno l'ha pensato in maniera diversa, poi le racconto chi. Un'ultima domanda, dottor Fancel, perché tra l'altro tra due minuti devo già chiudere. Allora, ho visto che il taglio di investimento minimo per poter sottoscrivere una quota del vostro fondo è molto alto, 170-175 mila euro, non si può fare qualcosa per rendere abbordabile anche ad un risparmiatore dal profilo un po' più modesto questo campo? Ah, guarda, in questo momento esistono dei vincoli normativi su questa tipologia di prodotti che sono fondi fondo lussemburghese non autorizzato e quindi è rivolto ad investitori qualificati, per cui il taglio minimo è molto elevato. Speriamo che cambi la normativa per consentire ovviamente un più largo accesso. Ad oggi è evidente che la soglia d'ingresso taglia fuori una serie di altri investitori che potrebbero essere interessati. Le dimensioni, perché non potremmo crescere all'infinito ovviamente, no? La ringrazio per essere stato con noi, la saluto, termino nei prossimi due minuti, tra l'altro non ho neanche permesso ancora a nessun ascoltatore di intervenire, lo faccio al volo con Marino da Rimini, a cui devo dare anche un premio fedeltà perché da un bel po' che è in attesa. Marino, buongiorno, rapidissimo se ce la fa, la ringrazio. Ok, grazie a lei, buongiorno. Volevo chiedere un'informazione, ma qual è il sistema con il quale il signor, Paolo Repetto, prima indicato l'avvocato Robert Parker, che classifica e dà delle informazioni e dei dati per far sì che un vino diventa o possa rientrare tra gli eccellenti per poi entrare a far parte di questa tipologia di investimenti? E se è solo lui al mondo o se ci sono altre, uffici o enti preposti che possono sostanzialmente fare la stessa tipologia di attività che svolge lui? Marino, la ringrazio rapidissimamente. Paolo, ce la facciamo dare una risposta all'ascoltatore? Sì, l'unico sistema è l'assaggio. Intanto Robert Parker mi sembra una bella risposta. Cioè, Parker non è un ente, ma un uomo in carne ed ossa. È una persona in carne ed ossa che assaggia i vini e dà un suo giudizio. È un giudizio personale, il mercato si fida e questo è quanto. C'è un fondo di investimento che punta su italiani. Sì, c'è. È l'unico in 30 al mondo, secondi, è l'unico Paolo, al mondo, si chiama The Bottle Asset Fund. Il 75% è composto del portafoglio da grandi vini italiani. Tra l'altro adesso abbiamo un grande vino italiano che vale più dei grandi francesi, perché è il Massetto 2006 e tra tutti i grandi Bordeaux 2006 secondo solo a Chateau Lafite, quindi viva i grandi vini italiani. Ha reso bene questo fondo? E questo fondo sta rendendo benissimo, perché i grandi vini italiani hanno un margine di performance più alto di vini francesi, perché siamo solo all'inizio, quindi credeteci. Mi verrebbe da dire. Ecco qua. Allora, la nostra rubrica con la collaborazione dell'INPS per conoscere i termini della recente riforma delle pensioni. Questa settimana l'approfondimento è sul metodo contributivo che dal 1 gennaio è entrato in vigore per tutti. Come funziona e qual è la differenza con il metodo precedente? Sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. La riforma prevede il passaggio al metodo di calcolo cosiddetto contributivo per tutti dal 1 gennaio scorso. In che cosa consiste questo sistema e qual è la differenza con il vecchio metodo retributivo? Con il metodo contributivo, l'ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio più versi più avrai. I contributi versati si accumulano su una sorta di conto corrente previdenziale, visualizzabile con un vero e proprio estratto conto, e sono rivalutati di anno in anno. Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati, il cosiddetto montante, è convertita in pensione utilizzando dei coefficienti che dipendono dall'età di pensionamento. In particolare, più elevata è l'età, più alta sarà la pensione. Col sistema di calcolo retributivo, invece, l'ammontare della pensione era correlato alla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e all'anzianità maturata. Prescinde sia dall'età sia dall'ammontare dei contributi versati. Paolo Repetto, grazie per avermi accompagnato in questo viaggio, ci vediamo il prossimo anno. Sì, ci conto, grazie a te. Grazie a Filippo Aureggi e a Davide Ciocia per l'assistenza tecnica da Verona, Barbara Bianchi a Verona e a Marco Lombardo a Milano. Noi ci sentiamo domani da Milano, purtroppo devo ritornare a casa. Buona giornata a tutti.